2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in versione estiva. Summer mode, potremmo definirla così. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024 e radio24.it. Ci trovate anche su Facebook oppure su Twitter. Questa è stata una settimana importante per il mondo Android, sia perché è stato presentato il Note 8, il nuovo prodotto di Samsung, e Samsung è ancora un'azienda importante nel mondo Android, anche se negli ultimi anni sta subendo una fortissima concorrenza da nuovi entranti, primo fra tutti Huawei, che sta crescendo molto anche in Europa. Ma anche perché è stato presentato Android Oreo, la nuova versione di Android che nei prossimi mesi arriverà sui nuovi terminali. Beh, è stata anche una settimana importante per il mondo dell'intelligenza artificiale. C'è stato un importante convegno internazionale a Sydney. In occasione di questo convegno 116 persone che appartengono al mondo dell'industria a vario titolo, gente che lavora nell'ambito dell'intelligenza artificiale, gente che lavora nell'ambito della robotica, ha firmato un documento per porre nuovamente all'attenzione delle Nazioni Unite il problema delle armi intelligenti, i robot killer vengono definiti. Allora, già 2 anni fa, in quel caso erano prevalentemente scienziati, questi scienziati, erano molto più di 116, sono arrivate alcune migliaia di firme, avevano firmato un documento, avevano scritto un documento per porre all'attenzione della comunità internazionale l'avvento delle armi guidate dall'intelligenza artificiale, quindi armi capaci di prendere decisioni autonome anche di fronte alla vita o alla morte di una persona umana. E questi scienziati avevano detto alla comunità internazionale in generale: questo è un problema che dobbiamo affrontare. In questo caso, questa settimana, queste 116 persone che appartengono al mondo dell'industria, diciamo capitanate da Elon Musk di Tesla, si sono impegnate per scrivere alle Nazioni Unite, quindi con un obiettivo molto particolare, molto preciso, per sollevare questo tema. Tra l'altro le Nazioni Unite hanno da poco istituito un gruppo di lavoro intergovernativo tra tanti governi in giro per il mondo per occuparsi proprio delle armi letali intelligenti, quindi l'intelligenza artificiale che viene messa al servizio anche di sistemi d'arma. Secondo questi 116 personaggi che hanno firmato questo documento, le Nazioni Unite dovrebbero prendere posizione e dovrebbero vietare queste armi, così come sono vietate ad esempio le armi chimiche. Dovrebbe esserci proprio un bando nei confronti di questo sistema d'arma, perché dicono: non possiamo permetterci che una intelligenza artificiale prenda una decisione sulla vita o sulla morte delle persone. Questo deve essere ancora lasciato alla decisione degli uomini. E poi anche perché queste armi potrebbero essere hackerate, potrebbero essere utilizzate da terroristi, e quindi non si deve arrivare al punto di permettere di creare queste armi. Dibattito molto interessante, molto complesso, ci sono alcuni che dicono che purtroppo sarà inevitabile la creazione di questo tipo di armamenti, però ben venga questa lettera. Su internet trovate il documento ufficiale, quindi merita una lettura. Questa settimana parliamo nel nostro approfondimento, diciamo estivo, in questa puntata estiva di 2024, parliamo di pubblicità online. La pubblicità digitale si è evoluta moltissimo, ne parliamo con Nereo Sciutto, che è presidente di Web Ranking. Bentornato a 2024. Grazie. Allora, tu, Nereo, e la tua azienda ha iniziato dai motori di ricerca come prima forma di pubblicità. Esatto, questa è stata la prima forma di pubblicità. Vi racconto una storia che forse può essere interessante. Tanto tempo fa un opinionista americano ha definito questo pezzo di mondo pubblicità permessa, il permission marketing, nel senso che sui motori di ricerca io chiedo qualcosa e il messaggio pubblicitario che mi torna assieme ai risultati di ricerca è qualcosa che io accetto, perché sto fondamentalmente cercando qualcosa, un'informazione, un prodotto, un servizio, un viaggio. Per cui I motori di ricerca sono stata la prima forma pubblicitaria in cui il messaggio era customizzato, era pensato per me. E sulla base del mio intento, sulla base del tipo di ricerca, ovvio che se uno cerca viaggio è talmente generico che il messaggio... Però sto cercando un hotel a Roma, 3 stelle, vicino a Piazza di Spagna, l'eventuale hotel o catena di alberghi che mi presenta il suo prodotto in termini di offerta, c'è questa notte, ci sono questi servizi collegati a questo prezzo, mi sta dando un servizio ed è quindi un messaggio pubblicitario che io ricevo volentieri. Quindi si personalizza sulla base di quello che viene chiamato l'intento. Certo. E l'intento, la ricerca, lo capisce molto bene perché è il testo. Sì. Allora, ricordiamo che nei motori di ricerca, e ovviamente parliamo prevalentemente di Google, ma poi ti farò una domanda su che cosa c'è oltre a Google, anche dal punto di vista geografico, perché ci sono paesi dove la presenza di motori di ricerca è diversa rispetto all'Europa. No, dicevo, per specificare, nei motori di ricerca ci sono una serie di risultati che non sono basati sulla pubblicità, ma ci sono anche dei risultati suggeriti che invece sono basati su pubblicità, cioè sono pagati. Esatto, c'è una sorta di bilanciamento. Prima di tutto il motore di ricerca deve essere neutro e deve fornire una serie di risultati che si basano su una sorta di qualità, di quello che viene chiamato il ranking, che è il motivo per cui la mia azienda inizialmente ha preso il nome di web ranking. Cioè il ranking è una classifica, è un elenco. Il motore di ricerca fondamentalmente fornisce una serie di risultati che secondo il proprio algoritmo e secondo una classifica vera e propria di qualità sono i migliori rispetto all'argomento che sto cercando. E questo è gratuito ed è un servizio su cui il motore di ricerca si basa per essere scelto e utilizzato. Perfetto, quindi non è vero che i primi risultati sono quelli per cui tu paghi. No, il motore di ricerca può mettere magari in alto, in posizione premium, alcuni risultati sponsorizzati, ma il cuore del motore di ricerca sono i risultati che vengono chiamati organici o naturali. Certo, quelli... Anche perché quelli sponsorizzati sono, si vede che sono sponsorizzati. Sì, nel tempo si è visto di più, meno, certo. Poi a seconda del motore, perché quando abbiamo iniziato c'era una forte concorrenza nel mondo dei motori di ricerca. E quindi alcuni motori sceglievano soluzioni un po' più invasive, un po' più differenzianti, ad esempio uno sfondo di colore diverso. Oggi la scritta è annuncio, è molto piccola, e diversi utenti non del tutto avvezzi a questo genere di mondo tendono a non distinguere. Però la cosa importante che tendiamo, è quello che cercavo di dirvi prima, che tendiamo a dimenticare, è che il motore di ricerca deve essere veramente molto bravo a fornire un'alta qualità dei risultati non sponsorizzati. Perché è come se io chiedessi a un amico un consiglio. Quindi io credo che Google sia un motore, sia un player credibile, sia un brand credibile. Gli chiedo un consiglio: quali sono i migliori hotel di Parigi? L'elenco che mi fornisce in maniera non sponsorizzata è probabilmente l'informazione che io sto cercando, un consiglio da parte di qualcuno che ha analizzato tutto e mi ha dato quella classifica. Se venisse a mancare la parte gratuita, quella non sponsorizzata, mi troverei di fronte soltanto a un broker. Quali sono, certo, le offerte? Sono queste, ma non sarei più sicuro del fatto che l'offerta fosse migliore per lui piuttosto che per me. Certo, certo. Che cosa c'è al di là di Google, almeno negli altri paesi? Cioè, immagino che nei paesi occidentali e Stati Uniti la stragrande maggioranza del mercato sia fatta da Google, un pochettino Bing. Allora, l'unico mercato... Allora, i mercati in cui la percentuale di ricerche raccolte da Google rispetto agli altri motori di ricerca sono tutti quelli occidentali, soprattutto quelli su cui il motore di Mountain View è stato più bravo a gestire la componente linguistica. Ad esempio in Europa, in paesi come Francia, Italia e Germania, la percentuale di penetrazione di Google è ampiamente superiore al 90%. Bing sta recuperando, il motore di Microsoft, quote di mercato in maniera abbastanza forte da quando è uscito l'ultima versione di Windows e quindi l'ultima versione del browser di casa Microsoft, che utilizza Bing come motore di default. La cosa invece più strana è che c'è concorrenza negli Stati Uniti, dove Bing ha una quota che è sempre rimasta a doppia cifra, consistente, anche perché quel genere di mercato è molto più governato dall'antitrust, per cui un'eventuale posizione dominante di Google al di sopra del 90% sarebbe stata in qualche maniera sanzionata. Certo, conviene anche a Google. Ecco, ma ci sono dei paesi dove, non dico che Google non esiste, però ci sono player incredibili. Visto che voi lavorate in tutto il mondo per aziende italiane che si fanno vedere, si vogliono far vedere in tutto il mondo. Sì, questo è vero. i paesi più importanti in cui le quote di mercato di Google non sono predominanti, anzi sono veramente residuali, sono in primis la Cina, dove Google ha fondamentalmente abbandonato anni fa il mercato perché il governo cinese in qualche maniera ha forzato quella parte di cui parlavamo prima di risultati naturali basati sulla qualità, impedendo che alcuni risultati che il governo riteneva non politicamente corretti fossero mostrati agli utenti. Per cui in Cina il motore predominante è Baidu, è un motore privato ma con una certa quota di controllo diretto o indiretto del pubblico, che è fondamentalmente il motore di riferimento per i cinesi in tutto il mondo. Quindi non è soltanto il primo in Cina, ma quota di mercato in tutti i paesi del mondo dove ci sia una comunità cinese. Ah, quindi i cinesi anche in Italia, magari non tutti, però usano Baidu. Sì, usano Baidu, come usano WeChat invece di WhatsApp. Sono molto legati ai loro tool e a quello che tiene unita una community distribuita in tutto il pianeta. Un altro motore estremamente interessante è Yandex, che è il leader in Russia. In realtà è un motore molto occidentalizzato, è quotato al Nasdaq, ha un centro di ricerca e sviluppo in Silicon Valley, si è allargato in Turchia, cioè è un motore che prova anche lì a seguire la community delle persone che parlano la lingua russa in tutto il mondo. È comunque leader di mercato in Russia e in tutti i paesi che parlano russo, quindi quelli della cortina ex sovietica. Un ultimo caso che conoscono in pochi è Naver, che è il motore di riferimento in Sud Corea. Ad esempio, questo immagino che in pochi lo sappiano. Adesso ci fermiamo per un minuto, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, tra poco. Bentornati, questa è la seconda parte di 2024, io sono Enrico Paglierini e con noi Nereo Sciutto, che è il presidente di Web Ranking, uno dei maggiori esperti di pubblicità digitale in Italia. E una cosa bella che tu, Nereo, hai detto, allora vorrei che tu la ripetessi, è che il mondo della pubblicità digitale si è trasformato così velocemente che, beh, intanto mancano professionisti e tra poco ne parliamo, ma soprattutto che un po' tutta l'industria si trova di fronte a qualcosa di nuovo e molte delle tecnologie non sono ancora ben sfruttate. Siamo solo, diciamo, agli inizi di una rivoluzione che nei prossimi anni ci riserverà cose straordinarie. Oggi siamo di fronte a una specie di nuovo gioco. È come se ci avessero messo di fronte il cockpit di un aereo di linea con tutti i pulsantini e noi fossimo abituati a guidare il triciclo. Diciamo che ha molte potenzialità questo strumento, ma ancora sta andando tutto talmente in fretta che molte anche agenzie blasonate non lo sanno usare bene. Ti faccio un esempio molto stupido. Quando mi reco in alcuni siti, guardo un prodotto, capita che questa pubblicità mi insegua in maniera veramente pressante. Il fatto che sia troppo pressante è già un problema, ma il fatto che una volta che io finalmente mi convinco per sfinimento o per altri motivi di comprare effettivamente quel prodotto su quel sito, basterebbe che il proprietario del sito staccasse, una volta che ho comprato il prodotto, il mio utente da quel genere di pubblicità, perché sta continuando a propormi pubblicità, quindi sta sostenendo costi, sta pagando per farmi vedere un prodotto che io ho già comprato, il che è francamente è una perdita di tempo controproducente, ma anche di denaro. Tu hai di fatto accennato ad una figura che è molto importante, che è rarissima, che sono i data scientist, cioè gli esperti di analisi dei dati. Sono quelle persone, quei mestieri di cui qualche anno fa non si sapeva nulla. Oggi nessuna università costruisce o produce o insegna data science. Cominciano i primi master universitari, che sono un po' più veloci del mondo universitario nel formare professionalità. Sono quelle persone che come lavoro prendono queste grandi mole di dati e cercano di estrarre della conoscenza, che tipicamente la conoscenza è in termini di azioni. Sulla base di questi dati ho scoperto questo, ma allora perché non proviamo a fare in quella maniera? E oggi big data secondo me sono un grosso flop, nel senso che tutti ne parlano, I dati sono disponibili, la mancanza di questo genere di figure che prendendo i big data capisca qualcosa è talmente evidente che continuiamo a parlare di big data, ma applicazioni concrete di big data se ne vedono veramente poche. Io posso avere i dati, anche pensate al pubblico che ha questa volontà di condividere big data relativi a, non so, dallo spostamento dei mezzi pubblici al traffico delle auto in alcune strade. Queste sono informazioni utilissime. Il fatto che uno le analizzi e dica: ma allora da questi dati ho pensato di proporre questo progetto, ecco, manca quel pezzo. Sì. I data scientist sono un gran bel lavoro, tipicamente si sviluppa provenendo da facoltà scientifiche, quindi matematica, fisica, statistica. E quindi mi confermi che è difficilissimo trovare data scientist. Sì, è molto difficile, è talmente difficile che c'è stata un'inversione di tendenza molto forte. Oggi è l'università che chiede a noi che stiamo seguendo questo genere di mondo che va veramente in fretta, di aiutarli a formare le persone, per cui noi siamo docenti in diversi percorsi post-universitari e universitari, perché i primi, vi parlavo di questo Master in Data Science che è organizzato dalla BBS, che è la scuola di formazione post-universitaria dell'Università di Bologna, dove all'interno di quel corso contribuiamo a formare i data scientist, perché l'università stessa non riesce a... Certo, non è una tipica conoscenza del mondo accademico. Esatto, mm-hmm. non lo è. Sì, sì. Quindi in questo momento l'università più intelligente è quella che si rivolge al mondo dei consulenti di impresa per riuscire ad acquisire velocemente queste competenze, perché sì, sicuramente sono corsi sempre molto partecipati, mm-hmm. e tipicamente le persone non fanno assolutamente fatica a trovare un lavoro alla fine. Se oggi, alla fine delle scuole superiori, qualcuno dovesse avere un dubbio su quali possono essere le professioni del futuro, diciamo che questo genere di mondo, e lo dice anche la comunità europea con numeri espliciti, nel nostro mondo tra la parte informatica, quindi programmatori, e la parte dei consulenti digitali che usano tecnologia per fare altre cose, compresa la pubblicità, questo genere di mondo manca in Europa già oggi di più di mezzo milione di professionisti, per cui non è vero che non c'è lavoro. Il problema è che il sistema deve, nell'arco purtroppo di una o due generazioni, il più velocemente possibile formare o produrre le persone che servono al mercato del lavoro. Senti, tornando al mondo della profilazione, lo diciamo in termini positivi, poi c'è tutto il tema del rispetto della privacy, ci sono anche operatori che non sono eticamente corretti, però stiamo parlando di un mondo buono che usa la tecnologia per fare le cose fatte per bene. E vorrei tornare a parlare di geolocalizzazione, uh-huh. perché noi ci spostiamo e viviamo comunque in un luogo, ci sono delle cose belle e interessanti. Prima di arrivare agli smartphone volevo farti fare un accenno ai cartelloni pubblicitari. Questa è più una possibilità più che una realtà, però che cosa potrebbe succedere ad esempio per i cartelloni pubblicitari, cioè sfruttando la tecnologia per cambiare un mondo statico come quello del cartellone pubblicitario? Sì, questo mondo statico è definito dai pubblicitari outdoor, quello che accade fuori, in effetti sta già sperimentando e ha già delle implementazioni, delle realizzazioni concrete, sono funzionate molto bene. Sta sperimentando il fatto che passando da una stampa preparata in tipografia e attaccata a un muro, passando a un monitor, in quel momento io, sulla base dell'orario, di quello che accade intorno, degli eventi all'interno della città, posso decidere di farmi vedere soltanto in alcuni momenti. Quindi sto rendendo il cartellone pubblicitario statico un po' più come la televisione, quindi prendo un target 2.5-3.5 su Sky Arte perché mi interessa, e a quel punto posso prendere persone che magari sono fuori in pausa pranzo, applicando questa cosa alle autostrade. Se ho dei cartelloni che in realtà sono degli schermi digital, in caso di traffico, in caso magari di incidente dove le auto sono ferme, posso fornire, pensateci, dei messaggi ad hoc, addirittura quelli che vengono chiamati quelli di instant marketing. Posso far vedere a qualcuno fermo nel traffico, imbottigliato, un messaggio del tipo: guarda, visto che stai perdendo tempo e non hai nulla da fare, prendi lo smartphone, fai questa ricerca e prenotati la prossima vacanza, così almeno pensi a un mondo migliore rispetto a quello in cui ti stai trovando, certo, in quel momento. Certo, oppure potrebbero fare un'offerta con prezzi anche magari alti. Sì. Perché tu sfrutti il momento... L'urgenza, certo. Sì, Amazon potrebbe, con il Prime Now, potrebbe anche trovare divertente e dirti: ok, se fossi a Milano ti potremmo consegnare direttamente una birra in macchina, intanto che sei in Colombia. Sì, ci sono degli esperimenti di consegna nell'automobile. Con i produttori di auto lo stanno proponendo, ne abbiamo parlato 2024. Se tutto questo lo spostiamo invece sullo smartphone... Succedono delle cose già oggi. Lo smartphone, in effetti, nessuno ci fa caso, a parte essere il device più personale fra tutti quelli che abbiamo in mano, per cui è mio, non è come esempio come il tablet, l'iPad, che certo, tendenzialmente viene usato in famiglia. Quindi, a parte quello, è l'anello di congiunzione tra tutto il digitale, che prima era su uno schermo fruito magari in ufficio, e il mondo fisico, perché attraverso lo smartphone io porto il digitale con me mentre mi muovo. E l'elemento in più è che quasi tutte le app riescono o a volte ottengono l'autorizzazione a usare la vostra posizione, la nostra posizione, e quindi utilizzano quell'informazione per fare qualcosa di un po' più approfondito, che non stai semplicemente cercando, ad esempio, un ristorante. Andando su un motore di ricerca su smartphone, cercando ristorante, il motore capisce già, anche se non inserite il nome della città, dove sei, cosa fai, in che via sei, ti consiglia i ristoranti vicino, in modo da dirti a distanza di 5 minuti a piedi c'è questo, che ha dei buoni rating, quindi unisce informazioni provenienti da tanti posti. Questo è il mondo del cosiddetto proximity, il marketing di prossimità, che è quello per il quale una catena di abbigliamento, ad esempio, può decidere di mostrare un incentivo a entrare in negozio alle persone che stanno entro tot metri dalla vetrina di questo negozio. Questo è fondamentale anche per un altro motivo, perché il digitale è sempre stato visto come internet su internet, quindi per un po' troppi anni il tema è stato come uso pubblicità digitale per portare a vendite su canali digitali, tipicamente sull'e-commerce. La vera rivoluzione oggi, per chi ha 500 punti vendita fisici che fanno fatica e un sito di e-commerce che cresce anno in anno del doppio, però è uno solo, oggi la vera rivoluzione digitale è usare una pubblicità digitale per portare persone a entrare nei negozi fisici. Quindi una delle cose che può salvare il retail fisico, compreso anche il piccolo negozio che non è parte di una catena ma ha soltanto un punto vendita, è un utilizzo, secondo me, un po' più intelligente di una pubblicità che non gira più in televisione, che guardiamo sempre meno, ma che girerà magari su smartphone, per aiutarmi a ricordare che posso entrare in quel negozio dove magari sono passato tante volte ma non sono mai entrato. Quindi è un elemento estremamente interessante. Oggi i pubblicitari stanno cercando di trovare dei sistemi nuovi per, senza essere invasivi, senza essere troppo pressanti, aiutarti anche sulla base della posizione in cui sei a trovare quello che stai cercando. Certo, in tutto ciò Google, Facebook, direi che pochi altri hanno una forza di mercato pazzesca. Sì, gli ultimi studi, ovviamente c'è un tema generale che ci dice che le trimestrali di borsa, per riuscire a fare dei conti veramente oggettivi, sono fornite a livello aggregato, per cui io posso sapere eventualmente il mercato americano o mondo. Quando si va a vedere il dettaglio in Italia è molto difficile capire quanto sia il fatturato da mobile, ad esempio, di Facebook o di Google sul mercato italiano. Se ragioniamo a livello aggregato sugli Stati Uniti, ad esempio, c'è una sorta di polarizzazione estrema, per cui oggi la pubblicità ha fatto centro, la pubblicità digitale che gira sugli Stati Uniti, quasi un 85% passa o su property, su siti di Google o su siti di Facebook. È pazzesca sta cosa. È fuori di testa, nel senso che da sempre questa percentuale è stata alta. Molti non lo sapevano, ma da sempre metà della pubblicità digitale è sempre stata presa dalla search, addirittura. Dopodiché Google è diventato un editore trasversale, perché il paradosso è che YouTube è allo stesso tempo un motore di ricerca. È stato per anni, probabilmente lo sarà anche oggi, ma si comincia a fare un po' fatica a fare paragoni, il secondo motore di ricerca dopo Google, il che è sconosciuto ai più. È un social network, ha logica di social network, ed è un editore. Il paradosso fantastico è che è un editore con contenuti prodotti da terzi, quindi è fantastico. Sì, è geniale. Esatto. Questo genere di siti sono andati assieme a Google Immagini, pensate a Facebook che ha acquisito Instagram, per cui queste galassie che si sono create, polarizzate intorno a Facebook da una parte e a Google dall'altra, stanno raccogliendo veramente tanta della nostra quota di attenzione rispetto ai contenuti digitali, perché noi utilizziamo quelle app, utilizziamo quei siti. Per cui alla fine, se ci pensate, la pubblicità digitale, a differenza di quella cartacea o televisiva, segue veramente tanto l'attenzione degli utenti. Se gli utenti tendono ad utilizzare un certo genere di servizi, la pubblicità raccoglie i dati, ci sono questi data scientist che ci dicono: guarda che l'attenzione delle persone sta in tot minuti, o gli accessi che ti arrivano al sito vengono da lì. Quindi nell'arco di poco, anche qualche settimana, si riescono a cambiare completamente quelli che una volta erano pianificazioni media che si decidevano all'inizio dell'anno e venivano portate avanti per un anno prima di interrogarsi sulla loro qualità. Oggi da un giorno all'altro vedi un cambiamento di comportamento e lo segui. Certo. A proposito di questi dati, mentre un tempo i dati erano i nostri fogli di carta, i nostri documenti, e quindi tu mi dicevi prima di iniziare questa chiacchierata che per capire chi era una persona si doveva guardare il cestino, e invece oggi basta guardare la navigazione che ha fatto la storia di archiviazione di navigazione, oppure i dati che ha nello smartphone o nel computer. Esatto, questa è una delle più grosse paranoie del nostro millennio, che molte persone sono veramente preoccupate, ed è questo ti porta poi al tema che viene identificato il tema di privacy. Ho sentito un'ultima intervista che mi hanno fatto per una testata giornalistica, era: ma come posso accettare che vengano usati dei dati di questo tipo se io non ho dato l'autorizzazione? In realtà su internet qualsiasi cosa viene fatta è da sempre misurata inizialmente senza autorizzazione, perché l'accesso a un sito veniva comunque registrato in maniera anonima con un IP, per cui veniva detto il tale indirizzo IP è arrivato su questo sito alla tal ora, per questioni almeno di controllo. E poi perché è quello che la polizia postale usa quando deve cercare di capire i comportamenti degli utenti, il fatto che qualcosa sia misurato ha un senso. Oggi come oggi invece, accettando servizi che apparentemente sono gratuiti, o registrandosi a siti, cediamo in maniera palese. Certo, noi crediamo magari di non averlo fatto, ma invece l'abbiamo fatto. Alla grande, e sì. Come? Certo. Sì, perché è la chimera dell'internet gratis. Questo porta comunque al fatto che ci sia un po' di preoccupazione verso il fatto che alcuni dati vengono gestiti o ceduti. E la storia del browser in effetti è una di quelle cose che può dire tanto di noi, ed è una delle paure che molte persone hanno. Sì, io ogni tanto vado a vedere la cronologia delle mie navigazioni e vado anche a vedere, visto che tutti gli smartphone registrano le posizioni, la storia delle mie posizioni, cioè dove sono stato e quando sono stato. Effettivamente fa impressione. Sì, a volte ti stupisci anche. Ti stupisci perché dici, questi sistemi sanno più di te che te stesso, perché io certe cose non me le ricordo, invece esatto, il computer si ricorda tutto. E poi raccolgono anche facilmente le tue abitudini. Il numero di ricerche da mobile ha superato quelle da desktop o da dispositivo comunque fisso. Questo significa che il fatto che, ad esempio, tu Enrico abbia fatto un sacco di ricerche magari in metropolitana o un treno oppure di fronte a un negozio, sono estremamente frequenti, quindi essendo così tante, l'unica cosa che puoi fare è utilizzare sempre quegli analyst di cui sopra, di cui parliamo da un bel po', per cercare di capire un po' di comportamenti, perché tu sei uno solo, pensa a una sessantina di milioni di italiani che fanno queste cose, quindi analizzare quella mole di dati per capire come faccio a parlare a un certo tipo di consumatore e dove gli voglio parlare è diventato estremamente difficile, perché oggi le variabili sono veramente tante. Ad esempio parlavamo prima del meteo, cioè del fatto che ci sono un sacco di informazioni che uso come pubblicitario per decidere di dare quel messaggio a quella persona in quel momento. Il meteo, soprattutto le condizioni meteo avverse in periodi in cui non te le aspetti, ad esempio 2-3 giorni di pioggia consistente durante i mesi estivi o magari nel weekend. A cosa servono? Queste sono informazioni utili perché il comportamento delle persone è influenzato dal meteo, non solo l'umore, ma molto spesso anche la quantità di cose che compro, quindi il come mi rivolgo agli e-commerce o la voglia che ho di fare shopping quando ad esempio ho 3 giorni di cattivo tempo durante un weekend estivo, o paradossalmente anche cambia se hai 3 giorni di sole e temperatura alta in gennaio a Milano. Certo, questi sono dati preziosi, quindi pensate chi è in grado di raccogliere questi dati. Che valore hanno questi dati anche per cose a cui uno non potrebbe non pensarci all'istante? Sì, esatto. Oggi lo scopo è mettere insieme dei pezzi. E infatti siamo in una sorta di nuova... È come un Far West. Stiamo entrando in nuove praterie dove possiamo provare a fare dei test su cose nuove, e alcuni di questi test sono estremamente divertenti. Vuoi farmi un esempio? Ma no, stavo pensando ad esempio al fatto che tutto questo deve comunque portare al fatto di ricevere, come una volta avevamo già detto, meno pubblicità, che è quello che può evitare il tema dell'ad blocking, cioè del fatto che la gente la voglia bloccare, meno pubblicità più interessante. Anche perché ci sono dei messaggi pubblicitari belli, io ogni tanto mi vado a riguardare alcune pubblicità che hanno fatto la storia della pubblicità, oppure ho visto un messaggio pubblicitario, cioè, oppure vado a riascoltare nei nostri archivi della radio quando ci sono dei bei messaggi pubblicitari. Devo dire che la creatività è purtroppo scarsa, però bisognerebbe fare di più per questo. Tu hai parlato, poi vorrei concludere, hai parlato di data scientist, cioè, quindi queste sono persone che vanno ad analizzare i dati. Ma buona parte di quello che accade nei network pubblicitari sulla rete è completamente automatizzato. Ci sono macchine che, come in borsa, comprano e vendono messaggi pubblicitari. Sì, è come la rivoluzione industriale che c'è stata quando le macchine hanno cominciato a costruire, ad esempio, le automobili. Si è passato da un meccanico, da una catena di montaggio, a qualcuno che riuscisse a programmare le macchine. Oggi queste macchine devono agire in real time, in una frazione di secondo, nel decidere che sono io che sto guardando l'home page di Radio 24 e che probabilmente il contenuto più adatto per me sulla base di un sacco di dati è quello. Per fare tutto questo le macchine devono essere programmate, perché devono agire sulla base di regole che sono questi nuovi analisti a creare. Gli analisti sono quelli che riescono a capire che un certo tipo di messaggio funziona bene per un certo tipo di persona. E, o ad esempio, in seguito a un test capiscono anche cosa non funziona bene e evitano di sprecare risorse, tempo e soprattutto anche l'attenzione delle persone che guardano quel messaggio. Dall'altro lato ci sono quelli che pianificano pubblicità, che oggi stanno diventando anche loro a loro volta un po' degli scienziati. Ed è lì che è l'area d'opportunità, perché se riescono a fare 2 più 2, o magari più 2 più 2 più 2, ad aggiungere diversi pezzi e a capire qualcosa che prima non era conosciuto, possono veramente fare la differenza per chi poi effettivamente vive di pubblicità, cioè praticamente tutti. Pensate un attimo come si è passati in meno di 10 anni dalla pubblicità televisiva, che era un messaggio uguale per tutti a pioggia, a oggi la possibilità di profilare in maniera intelligente, senza violazioni di privacy, proprio in maniera intelligente che piaccia all'utente, che il mio scopo è quello di dare un messaggio che piaccia all'utente, un messaggio pubblicitario sulla base di 20-30 parametri diversi. È diventato estremamente interessante. Questo, come dicevo, e hai ragione tu Enrico, dovrà passare necessariamente verso il fatto che il messaggio pubblicitario debba essere un po' più dinamico, un po' più flessibile, perché poi alla fine anche i pubblicitari, se io do messaggi diversi, momenti diversi, la persona diversa, anche sulla base di dove è fisicamente, dovrò adattare i messaggi pubblicitari, quindi non avremo più il 30 secondi di spot televisivo che vedono tutti, dovrò stimolare anche i creativi. Oggi la vera sfida è stimolare i creativi, perché creino tanti messaggi belli e appealing, interessanti. Esatto. Bene, io ringrazio Nereo Sciutto per essere stato con noi, essere venuto nei nostri studi. Grazie, in bocca al lupo per il vostro nuovo ufficio a Vancouver, in Canada. Esatto, grazie. Che serve proprio per il mercato americano in generale. Nordamericano. A presto e buon lavoro. Grazie.